che vi ascolto, ci mancherebbe. Da qua su ascolta voi i tedeschi, tutto sento oggi. C'è anche quel, vabbè, sembra che oggi non l'ho sentito, ma io l'altro giorno c'era quel ponte polacco su canale 4, in FM. No, già c'era poco fa, sì. Sassari, furto di gioielli via Provinzede, un appartamento di via Provinzede, è stato depredato questa mattina, poco prima di mezzogiorno, dai gnotti. Ingente il bottino, oltre 40.000 euro di preziosi. Nella stessa via è stato segnalato un tentativo di furto in un altro appartamento, sempre via in mattinata. Cazzo di mano, vasini di furti. Quelli sono i zingari, già lo sai, romeni, vanno con furgone, se... uno entrava alla finestra e poi apre le porte. Ci ha fatto il bollimone di fuoco. Ma sta a correre la palla, ma sta a cubille. A me viene male a salire come vogliono loro, perché c'ho le... la palattina fatta a scalini, quindi un po' male viene se me lo trovo in casa, sta tranquillo. Già voglio un roccio di ferro. Un roccio di ferro? Logicamente c'è un roccio di ferro, vabbè. Un pezzo di ferro, cioè, un pezzo di palo, cioè. E tu il cane che si mette a mossicare i pantaloni. Ma che la pigiala la finivo. Oh, ma rimane pure la balla, ecco, di qui da capo. Ma picchiere ora, pompo ricudi. Con la picchieriola grossa, che se non basta. Anto, come andiamo? Bene, bene. Meglio così, sto pompando io. Adesso mi faccio schiattare. Già va bene. Se vado con la scala, entrano in casa di Giovanna, cazzo. Basta una scala da 8 metri, sono direttamente entrato al zino. Che cosa? Certo, se lo vuoi entrare là, gli ho detto, di mattina. Direttamente a casa di Giovanna entra, ho detto. Ma fatti darle una fucilata a pieno petto a questi bastardi. Sì, vabbè, c'è Giampiero, il carrozzino, perché è da solo, c'è anche la bandante. Quindi figurati. In quelle di... quasi quello all'angolo, quando arrivo all'angolo ci sono i soldi di rame. E di uno che vende materiale per piastrelle e cose del genere. Hola! Vabbè, poca potenza adesso. Antone, mi senti? Segnalo dopo. Kappa, dai, avanti già. Ma Gianni non c'è più. Chi è che sta parlando dei Gran Prega? Perché le fanno pagare 50 euro da Fusaro? Già lo so, già. Beh, facciamo i bravi qua. Cos'è Gran Prega Fusaro? Non ho capito. Ho detto da Fusaro le Gran Prega fanno pagare 50 euro, ho detto, l'una. E quale? Quella ha fatto da via di più lo stilo, in alluminio naturalmente, forato. Ma quella lì è in alluminio. Io ho la 3 radiali in vetro resina. Quelle già tengono meglio, se hanno la struttura che la prima, sto parlando, che è alluminio pieno, poi c'è la vetro resina, dopo già vanno bene. Ma quelle che ci ha fusato, mi già l'ha vista Antonio quando gli avevo regalata. Cioè, tanto l'ho comprato una settimana fa, mi ha anche la vergogna, ha detto, di latera. Me la va tutta appeggiata, il primo vento, tutta piegata, ma la aveva giunto, ma va a far culo a me. E quando sono andato lì a comprargli l'antenna, ho detto a signora Giovanna, mi ha detto, buona l'antenna, non ti preoccupare, piazza, la TV a quanti anni? Sì, un mese. Sì, però non capisco perché ti abbiano dato una assidio. Quella volta là era assidio, era. Di solito loro avevano le LEM, capito? Già lo so, già me lo ricordo, infatti, infatti ero convinto che fossero quel modello lì, che fosse alluminio pieno e invece il vetro rigido, va bene, quelle tengono il vetro. Ma quella che ti avevo dato, dato io era una porcheria, al primo momento si è piegata, l'ho stata a mano, se l'hai vista, hai aiuto a portarla via perché non la voglio vedere. Ma dov'è? Dammi un rapporto di segnale. Prova. 1, 2, 3, prova. Sono 30 quasi, quasi 30, sì. Come è subito? Gappa, da te come sono in quella zona di Sant'Orsola? Oh. Ehi, un nuovo vaggio. Ehi, è sempre 9.30. No, no, non è cambiato. Antonio, fai un bravo. Gappa, e chi è? Chissà chi è, boh. È il signor doppio della città di Sassari, Gabbio. Vai, bello. Pomponio. Io guarda sono con la parigi. Ora lo passo, lo passo, lo passo, lo passo. E a te già lo passi. Il momento di bruciare la radio, basta giocare con queste cose. Devi scendere Gianni. Ah, lo passi a Gianni, ma Gianni mi sembrava stare neanche pompando. Sto scherzando tu. E no qua, e no che devi scendere i scintilli. Che casirena, Santiago 5. Ma qua sento io, forse perché non mi arriva a me. Sì, intanto si sente un suono strano, questi canali, poco faceva la sirena. Lo batte l'esca, lo batte l'esca. Faccio schiantare! Accudire, accudire. Regale Ghiccio. Attenzione, magna cazzofa! Ti faccio schiattare, ti faccio cillocci fuori! Luci de fuori si dice, luci de fuori! Sentito che l'ho detto, si dice luci de fuori! Io quando ti arrivo a te, Antu, che mi avevi detto, non me lo ricordo! Questo Smith si è a fondo scala, sì! Ora! Gli attacco lo strumento e mette di rimballo. Allora, poi di sotto casa a telefone. Oh, dai, non chiamo a stessi. E poi cosa attacchi? Dai, pompa, pompa, cazzo! Io voglio uscire naturale. Tutto quello che ha la radio io faccio. Non è dove attaccare i bambini dietro. Allora non sei un macho. Tu lo dici. Cappa, chi è macho usa quelle cose. No, no, no, no, no. Meglio uscire naturali, senza scarponi. Almeno sei più tranquillo e non devi disturbare a nessuno. Tanto sei qua davanti, non è che devi andare chissà dove. Ma sei un pompo, non sono io. Sei un pompo, nonno. Sono io. E provo a baciare appena appena. Guarda, con il 140 che avevo io, lo mettevo a metà. A metà lo mettevo. E uscivo tranquillo. E meglio non ci bongare su, ma va. Se no, lo stadio finale, lo sai dove va. Nell'apparecchio, fa puff. E puff, proprio copia che cosa. Ehi, Dani, ma con l'apparecchio che usi, anche andando... minimo 240 watt. In AM sì. Sì. Sì, al massimo il coso, il mic game. E anche l'RF Power. Ce li ho tutti e due. 2 al massimo, al 100%. Però se vuoi possiamo anche abbassarlo. Tipo adesso sono al 50%. Dimmi come ti sto arrivando, la differenza. La radio aumenta brutalmente. Quando non abbassi aumenta la radio pure. E io come sto uscendo, guarda, sto provando un apparecchio, aspetta, vediamo con. Sì, uscire sto uscendo bene, 9.40, però c'è un pochino, sai, anche un pochino di eco dietro, e c'è bello forte di radio. Io adesso di segnale quanto ti sto arrivando. Segnale, prova, questo qui è un po' secco, Come un po' secco? Ogni tanto. Vai, butti grosso. No, questo smitter non è regolato perché sta al massimo da 9 watt e tu sei al massimo, quindi calcola che sarai 9.30, dai, 9.35. Questo qui da 9 al massimo perché non va di più. E bisogna regolarlo, dai, questo smitter c'ha questo. Allora, io ho due potenze, questa qui è la prima potenza e questa è la seconda. Guarda come va. Sei salito di radio e sei sceso di 10. La radio è salita parecchio, ma di brutto mi, sei un bel potente di radio, bella forte e corposa, e sei sceso di 10. Invece tu, Antoa, quant'è che mi prendi adesso di segnale che sono sceso del 50% di potenza? 9.20 e radio 5. Ma radio 5 come prima o un pochino più forte? Ma non tanta differenza. Io ho aumentato ancora, come va? Sei sempre lo stesso, non è cambiato niente. Aspetta che te la porto al 25%, cioè a un quarto di potenza di questa radio. Dimmi cosa è cambiato. Vai, sì, 9.25, 9.30 qua, E radio? Migliorato o peggiorato? Radio bomba. Allora aspetta che lo riportiamo come era agli origini, cioè così, da. La matta deve fare, ragazzi, si cuvende la lancetta, se cuvende. Sì. Una lancetta. La lancetta si sta tirando. Pam, pam. Ma per questa propagazione? No, una sa cosa, E così le buccio, una freccia. Come frecciano? Quella lancetta è che ti si sta smattendo. Quella dei fat. E la gattuvidai a chi? Ah, poca roba. Ah, col 140 metti la metà che già va bene. Alla I devi ammetterla, amico, la metà proprio. Mettila lì che vai appena di più, anzi. Senza esagerare. Però vai tranquillissimo così. Ma io volevo provarlo perché già fa freddo e volevo scaldarmi le mani. Ma mi ha freddo le mani e ho dovuto provarlo. Ah, così è. No, io ho il termometro sulla radio. Tu pensi che sia a 36,3 gradi. Vabbè, dai che torna all'altra, dai. Volevo provare un po'. Popponio, ci sei? Eia, sono qua. Gappa, dai, riprendi tu che io... cambio radio, insomma. Cambio radio. Qua sta scaldando troppo. E la matta che non è varia. Ah, e vabbè, ci vorrebbe quello con 6 valvole, ci vorrebbe. Quello già ci metti la pentola sopra. Così ti scaldi la pasta. Gappa, gappa. Già andava. Dai che adesso cambio. E questo come fa? Come fa questo? Prova a mettermi un altro. Sei più basso, già 9.10. Questo qua è normale, proprio un apparecchio base, dai. Esce con 3 watt e mezzo. Ah, simile a quello che ho io, l'olovato, Esce con 2 watt e mezzo, quasi 3. L'unica cosa che ho avuto mettere il microfono con l'eco, se no non usciva nulla. Sembrava la papperetta, sembrava quello del cesso. Gianni, da dove stai modulando tu? Che non me lo ricordo. Sono a Via Baldetta. Guarda adesso Alessio come va.

9:40 quasi già. Ok. Chi è che mi sta bruciando lo smitter? Chi è? Io ero. No, tutti e tre, tutti 9:40. Gianni, Pomponio e tu. Esce 9:80. Ma non dentro c'è il fusto. Era per tocca un po' qua. Se no faccio la mascherina al 9:80. Devo vedere che bello che era. Che bello. Finita 9:40, anzi, 9:30 Marco. Sono tornato agli origini, già va bene. Così è, non ha guardato tu pure, quello è. No, quello l'avevo venduto a tu, l'ho venduto a poco. No, questo qui è il 3009. Va bene, ma che è quello omologato? Ehi, omologato e omologare. Capo, no, va bene. Sì, omologato c'è questo qua. Capo. No, quello gli andava bene. Ma non lo stavo usando, non c'avevo posto a mettere, ne avevo truppica. Truppi anche tu. Ma va bene. Ne ho, guarda, 1, 2, 3 stazioni base, più 2 veicolari. Penso che ce ne sia più di Purci. Voglia. Adesso la stazione a completo. Basta, mi dice che faccio. Io ne so 4, ma bastano. Cavagava. Vabbè. Più quello che mette in macchina, 9:80, che l'ho piazzato e poi non lo sto più usando, boh. E adesso comincerò d'estate, se mi faccio qualche giro, quando ero la lavora, ci me ne vado in giro e attacco l'antenna. Beh, cosa vuoi fare? Noi non facciamo le prove. Ciao, gara. Certamente che sì, ma io sto la gara è finita, oh yeah. Sto appagazione este. Ciao. Ma oggi è caldo un bel me. Ma si inizia. Domani scalda di più. Poi scende l'aria. Dice che scalda domani. Ehi, te lo sto dicendo, scalda un bel domani, 25 gradi. Dopo scende l'aria, da quanto sembra. Domani ha messo 29 gradi, lunedì 27, poi martedì pioggia e scendono a 19 gradi, mercoledì 19, giovedì 20, venerdì 21, con possibilità di piogge. Infatti è meglio mettere a fare a mare. Luque, ma questo 3009 con il microfono della ZG come va? Ma il tuo, questo qua? Eia. Bene, bene. Questo è il microfono della ZG, però l'ho cambiato la capsula, dico la verità. E l'ho adattato qua. Già, va benissimo, bene, bene, perfetta. Ciao, magà, già va bene. E tanto per farli girare, adesso vado, dai, che quella sta cadendo da sola. Si sente? Si sente? No. Non si sente nulla. Sto già abbinando l'impianto, allucinante. Casse, amplificatore, un fugato. Cosa ci ha preso? Saranno con della Marantz, insomma. Sarà contento il condominio. Della Marantz? A che impianti infatti chi sta? Marantz, sì. Sarebbe già roba buona. mi dispiace dirlo, ma FBT non c'è. Pluvice mondezza. Cosa? Quando voi ti siete in macchina mia, ti posso addrizzare bene. Cos'è l'FBT? Vai, raccogli fagioli, vai. Gianni, lo sai cos'è ukulele? No. Lo sai cos'è? Ukulele. Ukulele. No, posso. Tu lo sai, Gianni, cos'è ukulele? No, ma no, l'aranzo comunque non è male, no, la verità. Però c'è vuoi il top, devi andare su quei marchi. Ma c'è una volta, cazzo, boh. Vedi, io stavo parlando, non ci sento pure quello, vabbè, vai, tranquillo. Dani, si capisce niente, devo parlare uno sopra l'altro. Perché infatti devono lasciare 2 secondi almeno di spazio. Danilo. Sì, dimmi. Che impianto c'hai in macchina? Io, in macchina, tutto quanto Hertz all'infuori che il Subu ce l'ho tec. Io ci avevo tutto Hertz invece, c'è amplificatore dell'Alpine, stereo dell'Alpine, ed era una bomba, vibrava anche i vetri, fatti un colpo, capisci? Luca già l'ha sentito il mio impianto. No, io c'ho lo stereo Alpine, tutto l'anteriore Hertz, l'amplificatore Hertz da 1500 watt, e il Subu e vabbè, 1500 watt ci vuole un'altra batteria però. No, per fortuna no, però sono lì con la tenuta del motore che mi dà l'alternatore. Boh, io avevo un amico, se l'ha messa a 1500 watt c'era una batteria a parte dietro per alimentare l'impianto, capito? E vabbè, non c'è bisogno di 1500 watt in macchina, quando ne metti 300, 400 va bene, proprio ce ne per i pulci. Ma a me la musica piace molto ascoltarla, non la facciamo i timpani. Tu, qualunque canzone vuoi ascoltare, io te la faccio sentire tipo concerto, senza problemi, tipo Ligabue, una a caso. Io ti faccio sentire, Ligabue è proprio perfetto come se sei davanti a un concerto, ascoltandoti la musica davanti al concerto. La stessa cosa. Io dico solo una cosa, che viaggiavo a Porto Torres perché lavoravo a Porto Torres e facevo tutta la strada a Sassari, Porto Torres, con tutto il volume a manettone perché ascolto musica da discoteca, anni 80, mi piace un bel. Più vabbè anche altra musica ascolto, però solitamente ascolto musica da discoteca. Beh, fatto sta che una volta, ragazzi, c'era la polizia con le sirene e non la sentivo. Meno male che avevo visto di guardare lo specchietto, ho visto la polizia, ragazzi, che mettendo la paletta fuori, mi sono scansato. Ce l'ho fatta così, guarda. Ma poco non mi piglia in piedi. Tu pensa che io già da 10 di volume dello stereo non sento più niente dall'esterno. Tu pensa, la volta scorsa ho incrociato un'ambulanza, ha detto, ma le sirene accese va via, Ghizio. Poi ci aveva i lampeggianti anche fissi, che stavano lampeggiando, le luci blu in poche parole. Ho abbassato il volume di botto e ho sentito l'ambulanza. Ha detto, allora va via accese le sirene. No, già da 10 non si sente più niente dall'esterno. Se quando inizia a salire già i 20, 25, a volte anche sui 30 di volume, perché arriva fino a 35 al massimo, lì proprio mi vibrano brusinonnaggi i capelli, mi sento tipo le gambe, che c'è la colonnina a fianco alle gambe, dallo sportello, anche quella riga che mi sento i pantaloni vibrare. Tu pensa alla potenza che ha quell'impianto. Sì, lo so, anche a me lo faceva e io avevo meno watt, però il mio era un proprio watt, però andava molto bene e si sentiva bene la musica pulita, quello che interessa è quello, anche mettendo la bomba la musica si sente sempre pulita e quello che conta è quello. Sì, quello sì. Tu pensa che me l'ha tarato Pudiche, se lo doveva tarare un amico mio che fa impianti stereo, SWL, SWL, quella potenza lì in poche parole. che mi ha tarato Pudiche. Ma è qua, sentimenti, le colonnine, belle, perfette, prendi la linea posteriore, perché il mio ha tre canali l'amplificatore, cioè anteriore, posteriore e il tubo. Metto, tu prendi la linea posteriore, la porti ai tweeter, la linea anteriore la porti ai woofer, tu c'è un impianto che puoi già iniziare a fare qualche gara. Agito, ma cosa me ne frega a me, guarda, taramelo come deve essere tarato e basta, poi già mi arrangio io se falli o no le gare, ma no, proprio di gare non me ne frega niente. Ma tu è la prima persona che sento che le gare non gliene frega niente. A me me l'ha fatto proprio Pudiche l'impianto, è un amico Pudiche, no? Sono andato da lui a fare l'impianto, mi ha messo tutto lui su tutto qua su Twitter, io ci avevo già la casa Twitter su WhatsApp, tutto qua, tutto qua, ha messo tutto Ma no, io l'impianto me lo sono tutto quanto fatto io, perché mi piacciono a me fare queste cose. Poi sono andato da Pudiche e me l'ha tarato lui. Come ti ho detto, me lo dovevano tarare questo amico, invece no. Sono andato da Pudiche, me l'ha tarato, faccio come ho staccato la batteria la volta scorsa, mi si è tutto quanto tarato. Infatti devo nuovamente andare e altri 20 euro da mettere sopra. Però una volta che te lo tara è tutta un'altra musica. Proprio tu pensa che un giorno l'ho portato al massimo proprio possibile, a 35, nitida la voce. Tu pensa che sta andando a lavoro alle 2:30, ho incrociato questa macchina, una troppo la prende in pieno perché non ha messo la freccia. E sai cosa mi ha detto? Abbassare il volume dello stereo che mi disturba. Gli ho detto, no, non è che mi disturba il volume dello stereo, mi disturbi tu che non metti le frecce. E sono troppo pieno, gli entro dentro la macchina. E si mette ad abbassare il volume. E su che macchina l'hai fatto l'impianto? Sulla Clio terza serie, la penultima serie, là. Perché adesso c'è la nuova serie, quella con lo striscione nero agli sportelli. Io c'ho la serie prima. Ho capito. Avanti Luca, dai, riprendi, scusate se andavo un po' monopolizzato, però sono cose che mi piacciono a me. Bombola. Cappa. Già va bene comunque anche Marant, così, impianto da casa, no? Ah, impianto da casa, sì, Marant già inizia a essere qualcosina, no? Marant è l'amplificatore, poi c'ha le casse, non mi ricordo che cosa sono. E comunque suona bene, quello suona bene, c'ha tutto, c'ha eco, c'ha tutto quanto. È un impianto bello per fare karaoke. Antonio! Eia. Ma tu negli anni 90 ancora l'oratorio bazzicavi? Sì. E uno stereo a manetta non lo sentivi mai? Già l'ho sentito tanto, ma non me lo ricordo. No, non me lo ricordo adesso. Io ti ho mandato il mio... Ti ho mandato il video del mio impianto stereo, mi... Tu pensa, se sentivi quell'impianto, sentivi quella musica, era il mio impianto. Capa. Comunque, se io devo spendere, vado... Compro direttamente FBT. O... Profession o Martin, qualche cosa del genere, se voglio spendere soldi da 1000, da 1200, questi fanno tremare la piazza. Dani, sì, dimmi già. Comunque io come arrivo a passare li abbassavo tutto, perché se no ti seguono, te ne rubano case quando c'è. No, io non mi preoccupo per questo, intanto ormai gli stereo non li so più furendi, chi ci vuole questo? Non rubano gli stereo, ma magari si staccano le casse, l'amplificatore, si possono staccare il sub. Un po' di lavoro ci devono mettere per smontare il tutto, però un po' di tempo ci devono mettere, minimo un'ora per smontare il tutto. Io quando ho venduto la macchina tutte le casse le ho lasciate, se ho fatto solo l'amplificatore basta, le casse le ho lasciate tutte quante, se non toccava smontare i panni, fare questo, fare l'altro, non ne avevo. faccia tutto. Il padrone che ha provato a nuovo la macchina, ci ha messo lo stesso e era funzionato. Tu pensa, a casa da babbo avevo l'impianto e l'amplificatore del Paso. Il Paso 7500. Tu pensa, con quell'impianto avevo l'amplificatore, la radio normale che era collegata tramite le cuffie, un sub e due tweeter, no, il woofer e due tweeter, e basta, non avevo altro. Tu pensa che a volte babbo cazzo, quando usciva, quando alzava il volume e bussava la porta, nelle scale. Tata, devi abbassarlo questo stereo, mi stavano vibrando i vetri a casa, la di due addirittura. Eia, veramente. Comunque, fatto sta che a casa, in cameretta, dove c'avevo lo stereo, da una parte del poggiolo, c'è il muro tutto quanto spaccato dalle vibrazioni dell'impianto. Tu pensa alla potenza che va via. Io una volta, non so se ce l'ho male, io ce l'ho in sala, lo stereo, e praticamente dalle vibrazioni ha spostato tutti i bicchieri che c'erano nella vetrinetta, li ha messi tutti in avanti, di modo che se tu aprivi la porta, la porticina della vetrinetta riparava tutto intero, ho dovuto aprire dall'altra parte e mettere a posto i bicchieri più la prima di immaginati che potenza c'è anche il mio, quello della Panasonic, io c'ho, ho il cubo della Panasonic che mi fa un bel bene. Comunque ti stavo dicendo, il Paso 7500 di serie è 420 watt e si può usare a 4, 8 e 16 ohm. Ah, la vedi il nuovo di sciopa. Becla, cartano. Comunque già ce l'ho ancora quell'impianto, ce lo vuoi sentire? Ciao Claudio. Ciao a tutti, ciao. Buon proseguo. Ciao pa. Ciao Cla. Cosa è entrata? La palla vazzata, come ti vazzi che credo uno scla. Cosa? No, c'è un po' di propagazione, quasi quasi vi copre, capito? Non riesco a sentirvi bene. Parecchia propagazione c'è, e meno male che non ci sovramodula, meno male. Capra, ma c'è anche Pomponio. Vabbè dai, vi lascio anche io, vi saluto tutti cordialmente, statemi bene, buon fine settimana a tutti, ciao Claudio, ciao a tutti gli altri amici, e cosa ti per me, dai. Ciao Gianni, ciao, alle prossime. Ciao già, ci sentiamo. Ciao. Ciao già, alle prossime. E non vedo la zocca, oh, Gianni. È basso. È basso. No, comunque quello che c'avevo a casa era una cosa da non credere. Fregatene, quello mio candolazzo, trema tutto in occhio. Non ti preoccupare, che stiamo parlando di impianto professionale, non siamo proprio dentro di cose ci pittuno. Comunque, già, ce l'ho ancora a casa da babbo quell'impianto, se lo vuoi te lo vendo. Anto, ma col Gappa stai andando? Gappa! E col Gappa, sì, mi ascolti bene, che non avevamo ancora provato. Una bomba sei qua! No, mi ascoltate bene, anche tu da lì col Galaxy mi ascolti lo stesso. Sì, c'è segnale 920 e radio 5, bella forte, bella amplificata la voce qua. Sai com'è? Le radio belle sono sempre queste. Bella, va bene allora, dai. Ok, no, se per lì sono due tedeschi in mezzo alle balle tutto il giorno, quindi mi sento male, dai, va bene. Oh, ma non per balle, se no attacco con lineare. No, già arrivi, Anto, arrivate tutte e due, dai, già vi sento. Capo, se no non posso arrivare a scala massimo. Quant'è lì da te col il segnale del garage. 9:15, radio 5. Ah, va bene, dai, già va bene. L'ho staccata la radio di Giulio, così domani mattina andiamo a porto, dai. Ci sentiamo ragazzi, ciao. Ciao, Cla, ci sentiamo. Ehi, Cla, già ci sentiamo. Comunque fammi sapere per quel messaggio che ti ho mandato l'altro giorno. Fammi sapere, Dani, per... di quel messaggio che ti ho mandato l'altro giorno. Ehi, non prende il telefono qua, quando sono a Sassari lo guardo, eh. Ok, ciao ragazzi. Ciao, ciao, Cla, ci sentiamo. Ok, dai, Cla, già ci sentiamo. Ciao. Cla. Comunque ti stavo dicendo che adesso più in là devo valutare bene, devo comprare un qualcosa di molto più potente. Capito? Stavo guardando FBT, ma costa un botto. No, già ce ne sono, mi... Antu. Belle... di prima classe, però un bel po' di soldi sopra ci vuole. Ho prendo le auto professional che sono una bomba, ho prendo FBT non sbagli, no, comunque c'era, perché adesso non c'è più qua in Italia, è partita all'estero. Gianni si chiamava, adesso si chiama, non è che si chiamava, questo qua faceva l'elettricista, si metteva a fare gli impianti stereo, proprio come io comando, ma tu dovevi sentire la classe di suono che ne toglieva quando metteva la musica, a 16 ohm, non a 4 o 8 ohm, a 16 ohm. Vedere quando si metteva a fare musica cosa, il suono che ne toglieva con quelle colonnine, con quell'impianto che aveva. Beh, devono essere fatte per quello, cioè... Se non sbaglio era la Marantz, come marca, però era roba seria, amianto, roba di prima qualità, lui si voleva sempre prendere, ma tu dovevi sentire il suono. Ci ho messo anche musica sarda, ma detto, senti questa musica come esce, limpida, sembra naturale. Mi sono messo a ascoltare proprio i minimi dettagli, tu dovevi sentire questa musica che ne usciva, è impressionante. No, io vado su più con gli impianti e pompano forte, impianti da casa sono impianti da casa, ok, però io vado su quegli impianti molto grossi, cioè mi piacciono quelli lì, mi piacciono, che secondo me è quello che ho sentito meglio di tutti, come impianto grosso, cazzo da piazza, che fate tremare tutto, senza togliere niente agli altri, ma sono quelli americani della Meyer, sono una bestia, sono spingendo. Comunque mi piacciono molto più quelle, gli impianti delle macchine, gli impianti wifi, perché ti spiego il motivo, più lo metti grosso più batterie devi caricarti, perché secondo quanta potenza metti in un impianto stereo wifi devi metterti per forza le batterie per tenerti in carica sempre. Le batterie ti serve per forza un altro alternatore aggiuntivo. E c'è questo amico radioamatore, che non ti faccio i nomi perché non va bene, ma ha detto, perché un giorno ha aperto il cofano, no, io al lavoro, ma ha detto, guarda la roba seria, non si vede a nuda, proprio l'impianto non si vedeva. Me ne sono accorto solamente per un dettaglietto che aveva lì, non si vedeva niente. Metto, qua c'è un signor impianto, tu mi dici che musica vuoi ascoltarti, io te la faccio sentire. L'unica musica musica che piace a me, tipo la musica che fanno nei concerti, tipo la Scala, quei concerti lì. Metto, io ti faccio sentire questa musica, tu mi dici che sei esattamente alla Scala ascoltandoti la musica, proprio in diretta. Fate la gente, ma veramente, ehi, io faccio l'ingegnere e faccio anche il direttore di quando fanno le gare CPL. Metto, io faccio queste cose, mi sono fatto questo impianto, e questa qua è la macchina di mia moglie lì. Ma io mi faccio questo impianto ed è una cosa da non credere. Vedi qui c'è una bucinata, la musica a gamma, la corsa. No, comunque c'è un signore in pianta anche lui, però non si vede niente nella sua macchina, proprio come se la macchina fosse nuova dalla concessionaria. E poi incominci a aprire cofani, cofanetti, e vedi tutto quanto il ben di Dio nascosto. L'unico difetto che c'ha, lo sai cos'è, che ascolta musica che non farà nulla. Quella musica c'ha certi suoni che manco l'impianto di casa te lo toglie. Ehi, un guru mio sono a più bello. Cado, ma gli faccio un tondo. Ah dai, ma smettiamo, ma quella musica è... Tu cazzo di trombone, l'operetta, ma perché non vai di fico di mare, tu macchina operetta? Con quella musica deve uscire limpido limpido lui, non bum bum bum. Con quella musica senti tutti i suoni, quanti strumenti ci sono? 18 strumenti, li senti tutti quanti. E invece il bum bum bum non li senti tutti gli strumenti, vai tranquillo. Dove andiamo? Che? Che? Ma secondo te ma ti intendi di sacrifezza? Ma di cosa stai parlando? Ma dai, no, non è roba per meno, ma ti intendi chi c'è flauto, chi c'è violino, chi c'è cosa? Ma che non te lo buoni un dico io? Lubifero. Quando lo sentirai un signore in pianto, gli dici fammi sentire una musica. La prima musica che ti mette è quella lì, non è che ti buoni le boom boom boom. No, è boom boom boom, no. Qual è la musica come si deve? Ascolta, te la posso dire una cosa. Vanno in impianto, come musica, sono scarsi. Fateli gaga! Non è buccia di yoga. Ma non è bu bu bu bu buglioni. Milu, cosa c'ho dietro il cofano? Diglielo ad Antonio. Antonio, se no ti supera, Non lo smanetto mai, lo vale il massimo che sai che è 25, non di più. Vai con la brutta pastrugiata. Tanto morte di papa, provo a sollevare, ma è difficile. Anto, sti siedi e solleva vomiti, Questa è musica. Dimmi che mi siete mai, il mini boss è qua, poi cattai questa cosa, cosa intendi lo bifarello, lo brauto, mica io parlo mi, quando picco vado ancora più bene, e quando riba fa ancora di più, il triplo ballo. E bello, che te se sfattende? Hai sentito la gente di Banini, un attimino. Chiama Marcellino, ma come si cura un cugino. Oia, oia. Oh Luca! Sta solo un imbriagheggio, e siamo, parliamo di chicciacchi, no? Che? Il chicciacchi! Ehi, vabbè, noi andiamo all'imbrencio, lo dimmo. Non si parla del tippitappo, Anto? Il tippitappo? È un biliardo, un buon tappetto. Dice che si gioca con le botti, sono passarato, dice. Punta, attacco, attacco, punta. A me piace il reggaeton, come si dice, anche... mi piace anche di quel... solo che poi mi stufa. Musica discoteca forte, poi mi piace... quella che mi stufa un po' è coso, come ti si chiama, la salsa, la bachata, qualche cosa mi piace. Io l'ascolto tutta quanta la musica, però non è che sto sempre con la stessa musica. Comunque, prova a metterti un pochino di Alfa Blondi, Bob Marley, Manetta, e mi dici se distorce. Se distorce vuol dire che c'è qualche difettino nei bassi o negli alti. Ma secondo te è una roba che distorce? Probabile. E finirà. Chissà sai quanto è buono con lo spinello. Comunque è impossibile che non distorca. Deve appena distorcere, è per quello che sono fatti gli impianti, no? Quindi sto punendo gruppi di vini e di carabinieri. Giustamente a Marcellino non mi risponde, boh. E a chi è Marcellino fa nel vino? Ma sentiamo 2 minuti adesso, no, la pizzeria, se vediamo 2 panini. Non so perché non distorce. Allora, perché chi sa usare il mixer, chi sa usare, il volume non va messo al massimo oltre 10 dB. Io non lo metto oltre 10 dB. Vado nella scala che si chiama 00, è un discorso un po' più tecnico, è il massimo che posso salire. Capito? E quindi non ha distorsioni. Poi le casse dietro hanno dei blocchi, che non li fa andare più di quel tanto, quindi la distorsione non ti uscirà mai, capito? Quindi tu viaggi tutto quanto col mixer? Beh, me lo faccio un pianto GPT mio. Sì, invece in quel Paso 7500 senza mixer, tutto radio amplificatore, distorsione, poco e niente. Però secondo che canzoni mettevo a manetta e a tavoletta, allora sì che distorceva. Bisogna vedere anche, cioè oltre il limite non ci puoi andare, bisogna vedere quanto è, capito? Non sono tutte le cose che ti contestano andare oltre il limite. E quello è il segreto, deve pompare, però non deve andare oltre il limite, non va bene. Già una tecnica c'è mi dietro, non è cuscino. Vabbè, se usi il mixer sì, c'è la tecnica su quello, però senza il mixer l'unica cosa per non farlo distorcere è abbassare appena appena il volume della radio, non dell'amplificatore. Chiappa, aspetta un attimo che sto telefonando. No dai, adesso chiudan tu, che tra un po' arriva la pizza. Dai Artù, già ci sentiamo, se ce la faccio anche domani, no? Dai, già ci sentiamo. Ciao Artù. Ciao. Ciao a tutti, che sono in frequenza. Hola. Hola, Girola. Hola, Nada, España. Buonasera. Ciao, segnalone, l'amico di Spagna. Buonasera. Eco Alfa 5. Pasó tú en Alfa 5. Vale, ¿dónde te encuentras? Aquí 165, Sardegna. Hola chico, vamos a ver Sebastián la Italia que va llamando, adelante. Hola chico, vamos a ver Sebastián la Italia que va llamando, adelante. Italia, aquí Alfa 5 desde España. ¿Quién eres? Ok, saludito amigos. Aquí la estación Lima Uniform Charlie Alfa de la ciudad de Sassari, norte de Sardegna. Adelante. ¿Eres español? No, no habla poquito español, mi hermano. Hablo poquito español. 10-4. Tu señalito, señale 3, radio 5, ¿ok? Ok, ok. Señal por allí, 7, radio 2 para 3. Ok, ok, 7351, compañero Antonio, adelante. Lui qua arriva a 9.10, 9.20 mi. No, vabbè, qua è 3, 5, dipende. Ma qua fa 9.10, 9.20, 9.10, 9.20. Dai, adesso chiudo, dai, Antonio, Luca, già ci sentiamo, forse domani entro in radio, là. Ciao Lu. Vabbè, cucciuccio. Anche tu pompendi 9.40 a questo smitter. Stai dicendo il razzo cinese? Sì, che potrebbe cadere anche in zona mediterranea. Sì, mi pare 20 tonnellate o giù di lì quasi. Ma dovrebbe bruciarsi o frammentarsi molto nell'atmosfera. Minchia. Non lo so, no. Io spero di sì. Che lo cala qua. Che va a girare davvero, non è questione di pezzi da 50 centimetri, no, questi pezzi da medimieri. In campo girato viene pulito. Sì, no, ma è talmente vasta l'area, Antonio, no? A meno che cazzo non c'è la sfiga proprio. Comunque, se tu a una certa ora della notte guardi, se si disintegra in zona visibile a occhio nudo, dovresti vedere tipo, come si dice, tipo se le cadenti, come brucia nell'atmosfera. Sì, se vedo che è un pezzo unico, stai tranquillo, me ne scendo in garage io. No, guarda, se è un pezzo unico puoi scendere anche in garage, ci porta via tutto, fa il cratere fa. Tu sai cosa sembra? Quella musica che ascoltano quelle bande di, come si chiamano? Di ispanici, quelle bande dei quartieri di Los Angeles, quelle gang di ispanici. Questa è musica, è finita. Meno male non abitiamo il palazzo di brasiliano, siamo guai. Ne avrete visto, sto facendo a ballare. No, vabbè, adesso c'ho il minibus e c'ho. E stasera una via gamma da attaccarsi, no, lo palazzo si trema. anzi lì meno male che dopo tutto è tranquillo, anche se si lamentano lì i cioccolatini. Ma qua, se alzo qua, subito ti suonano, per carità. Non puoi fare niente qua. L'italiano che rompe qua le velle del coso. Chi ci sono mezzi imbriachi, si può abbattare. Sì, sì, infatti, casino fanno loro, quindi lo sopportano anche un po' il casino. Guarda, ma che c'è musica vero, però? Avanti la provincia di Taranto! Avanti Taranto, avanti! Non mi sento. Attenzione Taranto, ci ascolti, stazione Paolo Falcone. Avanti Paolo Falcone! Buonasera, volevo sapere se sei peloso. Questo solo a me ascolta, poi dove mi ascolta, strano. Alto pompa. Ah sì, sta un attimo. Cazzo, io sono 10 watt, io non ando a loco. Brecche. Avanti, sono stato perché sta pompando, con lineare. Buonasera, ciao Antonello, ciao Marco, ciao anche Antonio, ciao anche l'amico di... che mi sta ascoltando. Antonio, sta ascoltando un po' il sasso, eh? Ehi, sto pompando, sono con lo... dello Spini CTE. Ah, ecco perché mi senti saturo. Per quello, eh. Attenzione amico, mi sta ascolti Sassari. Antonio ha fatto scappare, ha detto è andato a Bandura e faceva perdere i piedi. Avanti anche questa musichetta. Capa, buonasera Marino, buonasera. Ora ancora per scaldare. Attenzione l'amico di Taranto, copi la Sardegna che fa chiamata K. Esiste il casa Baggiù Yoga. L'altra notte Marco mi ha dato un affare cinese, un blaser, che fa luce, non sei è verde. L'ho attaccato in terrazzo e l'ho puntato dove ci sono i... in strada, tu devi vedere la segnalità che sembrava fosse accesa al giorno. Io, ciao Marino, occhio ai laser mi Antonè, a non puntarlo per sbaglio in cielo, cioè che c'è che qualche pilota di linea. No, ma i laser ci usano anche a fare con la discoteca. Sono belli, eh. Hola. Attenzione, binario 10, binario 10, copiate il bombolo K. Fosse stato più potente che l'avrei portato in cielo e direttamente mi avrei trovato i carabinieri a casa perché è poco ma sicuro. Sei qua, se avete modulato, Antonio. Cappa cappa! Marino, guarda a vedere le ottave con le coordinate! Prova a modulare, Antonio, e tu? 1, 2, 3, prova! 9, 18! Sei qua! Avanti, Marco, allora, tutto a posto? Sì Marie, tutte le giornate uguali, oggi vabbè, ho fatto un'uscitina zona Pratamona, però in teoria non puoi uscire al comune, quindi però torre niente. E io mi ho terminato di fare un lavoretto qui in campagna a casa, diciamo là, tagliando l'erba, mi ho le braccia a pezzi, per carità. Adesso domani mattina, se non vuole me ne faccio un altro pezzo. E parte e lui è fatta. No, Antonio, avanti. Sì, fa come ho fatto io, ti ho portato a Giampiero a fare una passeggiata in carrozzina, l'ho fatto fare via Calofrice, discesa fino alla piazzetta dove c'è Cicci. In discesa veniva un pochettino male a traverlo, perché pesa. In salita mi sono massacrato le braccia, le mani, avevo i tendini che non li sentivo più, come li sentivo. Sembrava di aver portato, non ti posso dire, quattro sacchetti di cemento via Calofrice in alzata, in carriola. Due giorni con le braccia e i muscoli mi facevano male. Perché non sei abituato, se lo porti ogni giorno i muscoli che fanno, per il caldo e non senti nulla. So che in salita, secondo quanto pesa, è molto difficile che scende la massa, capito? Che scende la massa in salita, in discesa in discesa. Meglio così, almeno la portata a passeggio, ogni tanto mi riesca. avanti, avanti. Ehi, vai. Beh, abbiamo letto, c'è il track, è attrezzato, basta che ci metti.